L'Africa è lontana, vista dalla luna, passa l'eternità. Strada che porti al mare, lasciami qua. Passa una bandiera, forse quella vera, vende la fortuna, vende anche la luna. Cosa ti comprerai? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Quando si fa sera, quando torni a casa, viva la libertà. Chi si contenta muore, non lo sa. Dopo l'avventura passa la paura, viene il carnevale, c'è Papà Natale. Cosa ti porterà? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Dormono i poeti, principi e pirati, Don Chisciotte e D'Artagnan. Chi non ha più nemici non ha pietà. Costa poco il gioco, paghi sempre dopo. Ecco la fortuna, eccoti la luna. Quanto ti costerà? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Perché non dormi, fratello, la notte chiara? Perché non dormi, fratello, la notte chiara?